Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Andrete dall'ortolano, chiederete un chilo d'arancio e l'ortolano vi dirà non so, devo avere istruzioni da Torino. Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi vi parliamo del problema del chilo. Il chilo non pesa più un chilo. Che fare? Ci occupiamo di come si può ridefinire l'unità di misura del peso. Da una delle teorie più rivoluzionarie della scienza, la meccanica quantistica, possono arrivare grandi applicazioni per la ricerca farmacologica. La culturomica, una nuova scienza, permette di valutare l'impatto degli scienziati sulla cultura e la società. Fra pochi giorni arrivano su Marte e vi staranno per più di un mese. Sono gli astronauti che in Russia stanno simulando il viaggio verso il pianeta rosso. Ciao Chiara. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Il chilo non c'è più, abbiamo detto. Non è che non c'è più, non pesa più un chilo. Non pesa più un chilo. Sì, sì, è una notizia che è circolata abbastanza in maniera internazionale e ha raggiunto ovviamente anche i nostri quotidiani con paginate intere, per cui appunto sembrerebbe che in Francia hanno questo nuovo problema, l'Ufficio Internazionale di Pesi e Misure. Ecco, perché sembrerebbe che il chilo, l'unità di misura che utilizzavamo come campione di riferimento, si è un pochino deteriorato, oddio, deteriorato di millesimi di grammo, cioè neanche un granello di sabbia, però non è più il chilo di una volta. Senti, cosa c'entra Torino? E allora, appunto, abbiamo dovuto chiedere ai nostri esperti di casa. Noi sappiamo che in Italia, soprattutto a Torino, c'è un custode, un portinaio del chilo. Un sacerdote. Sì, il sacerdote del chilo italiano. Ecco, è il professor Walter Bick. Buonasera, professore. Buonasera a lei. Buonasera. Le va bene la definizione, sacerdote del chilo? Ma no. Grazie, comunque diciamo che c'è una certa ritualità connessa con questa faccenda del chilogrammo, perché è un oggetto unico custodito in un posto unico anche questo, cioè a Sèvres, nei sotterranei di questo Bureau internazionale Poise et Mesure, viene aperto la cassaforte che lo contiene, viene aperta una volta all'anno tipicamente. Ci vogliono tre chiavi, una è quella del direttore del bureau, l'altra è quella del presidente del Comitato Internazionale dei Pesi e Misure, la terza è quella del responsabile degli archivi di Francia, perché la Francia è il paese che ospita il BBM, e insomma tutto questo contribuisce a dare una certa sacralità. Qui a chiamarmi sacerdote, insomma, un po' eccessivo. Ma anche a Torino siamo messi così. Il nuovo film di Dan Brown sarà girato lì. No. Sì. Sulla perdita del chilo. Sulla perdita di... ecco. Potrebbe essere soggetto di un buon B-movie. Diciamo che a Torino abbiamo una copia, come tutti i paesi che hanno aderito nel 1875 alla Convenzione del Metro, anche l'Italia ha ricevuto non solo una copia del chilogramma prototipo internazionale, ma anche una sua riserva, diciamo, nota come testimone. Ecco, lei si trova, per informazione, diciamolo, all'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, appunto, a Torino, e insomma il suo campione gode di buona salute, invece quello parigino sembrerebbe di no. E poi di che cosa sono fatti questi campioni? Questi campioni sono costruiti con una lega 90% platino e al 10% iridio. Io ancora, già quando cominciai a lavorare qui molti anni fa, credetti che questa fosse una scelta oculatissima, dettata da studi super raffinati per trovare il materiale migliore. E invece? In parte è vero, ma in parte fu anche una casualità, perché quando decisero di... l'idea era di farlo di platino puro, e poi si scoprì che non si riusciva a ottenere del platino così puro come si voleva, ma che il platino era contaminato da una certa percentuale di iridio. E poi la cosa buffa è che questo fu un bene, perché l'iridio contribuisce a indurire il platino, che di per sé non è un materiale particolarmente duro. Ora è chiaro che un oggetto che deve durare nei secoli deve avere tutta una serie di buone proprietà, tra cui anche quello di essere piuttosto resistente alle scalfitture e via dicendo, oltre che agli attacchi chimici e cose di questo genere. E proprio per questo motivo sembrerebbe che l'esemplare, appunto, che si trova in Francia abbia un po' perso le sue proprietà iniziali. Allora sì, il prototipo viene custodito lì e nella sua storia, cioè dal 1875, sono state fatte tre grandi campagne di confronto tra lui e tutti gli altri che da lui dipendono e discendono, compreso il nostro. Ecco, nell'arco di queste tre campagne si è avuta una buona evidenza del fatto che il prototipo starebbe perdendo un pochino di massa, è come se un po' di massa evaporasse, il che non è neanche poi così improbabile, perché il platino è un buon contenitore, per esempio, di idrogeno. Potrebbe essere scappato un po' quanto? 50 microgrammi, significa 50 miliardesimi. Miliardesimi. È chiaro che lui è l'unità, e essendo lui l'unità è un sacrilegio dire che è cambiata, perché l'unità è l'unità per definizione. Certo, però non vale. E allora che cosa facciamo, professore? Cosa si fa? Ma possiamo ispirarci a quello che è accaduto nell'83 per un'altra unità di base del sistema internazionale, cioè per l'unità di lunghezza, il metro. Il metro è partito come il chilogrammo, con un manufatto, quindi un regolo dello stesso materiale, e questa definizione venne abbandonata già negli anni 60 in favore di una definizione basata su una lunghezza d'onda di un certo fenomeno. Nell'83 si decise di legare la definizione del metro a una costante universale, cioè alla velocità della luce. L'idea relativa alla base della prossima ridefinizione del chilogrammo è la stessa, e cioè quella di legare la massa, l'unità di massa, a una costante fondamentale. Le candidate più probabili in questo momento sono la costante di Planck o la costante di Avogadro. Perché a quel punto noi abbiamo un oggetto, diciamo, di tipo fisico-matematico, e questo non può deteriorarsi, insomma. Non può evaporare, questo è l'importante cambiamento. Ecco, chi BIC potrà prendere questa decisione così solenne? Questa decisione può essere presa allo stato delle cose, con le regole attuali, soltanto dalla Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure. La Conferenza Generale è un trattato tipo diplomatico, quindi a livello di governi, e si riunisce ogni 4 anni. La proposta di cui stiamo parlando venne lanciata nel 2005, e la speranza dei proponenti era che si riuscisse già nella conferenza generale del 2007, ma vennero presto dissuasi. Ecco. La prossima conferenza si riunirà dal 17 al 21 ottobre di quest'anno, quindi del 2011, ecco. E anche questa volta le speranze di riuscire a procedere a questa modifica epocale saranno frustrate. Qui ridateci il chilo, come mai perdiamo un sacco di tempo? Comunque si prefigura veramente uno scenario la Dan Brown. Vabbè, comunque saranno frustrate perché non si sono ancora verificate le condizioni necessarie per poter procedere a questo cambiamento. Va bene, quindi, Bic, aspettiamo, insomma, dai. Sì, diciamo che si pensa che la cosa possa accadere nel 2015, cioè in occasione della successiva, credo, 25esima riunione della conferenza generale. Vi staremo addosso. Grazie, Bic, buonasera. Un piacere, grazie a lei. Buonasera. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Quiz marziano. No, quasi marziano. Vabbè, insomma, state pronti. La prossima settimana gli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea in viaggio verso Marte, ma sempre rimasti sulla Terra, come avete sentito nei titoli, usciranno dalla capsula e entreranno in un ambiente marziano simulato. Quali problemi dovranno superare? Allora, il primo, il mal di piedi. Dopo 6 mesi senza camminare, il suolo roccioso marziano non è affatto agevole come primo terreno da incontrare, anche con indosso una tuta. Ci scriverete piedi. Seconda possibilità, si ricorderanno tutte le cose che devono fare una volta usciti dalla navetta spaziale. Domanda. Ci scriverete ricordare. Terza e ultima possibilità, sono stati per 6 mesi tutti insieme nella simulazione delle attività su Marte, si prevedono ore di lavoro anche per soli 2 astronauti. Questo può generare, dicono gli tecnici, una strana ansia. Ci scriverete ansia. Dove? Beh, è il solito SMS al 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Il fisico in salotto, scoprire i principi fondamentali della fisica senza stancare la mente, scambiando 2 chiacchiere fra amici, è scritto da Guido Corbò, edito da Salani. Dell'ammartamento, della discesa su Marte, parliamo praticamente subito. In collaborazione con IBS.it. vieni qui Chiara, guarda, sì. Adesso scrivo sul monitor ammartare la, hai visto? No, corregge in ammortare. Ammortare. Ma si dirà ammartamento o ammartaggio? Questo non lo sappiamo ancora, però verrà un giorno in cui l'editor, come quello di Word, non correggerà più e scriverà, lascerà ammartare. Entrerà nel dizionario. Dizionario. Sì. Quando entrerà nel dizionario, forse questo qualcosa può chiarircelo Simona Di Pippo. Buonasera Di Pippo. Buonasera. Direttore del volo umano ESA, Agenzia Spaziale Europea. Dunque, qui ci sono, in queste ore praticamente, manca poco, degli astronauti che ammartano, non sono veramente su Marte, però insomma... Simulano. Allora, cos'è questo esperimento? Quando è partito? È partito a giugno dello scorso anno, è un esperimento che si chiama Mars 500. Perché 500? Perché simula un viaggio reale verso Marte. Con le attuali tecnologie noi impiegheremo 7 mesi a mandare degli astronauti sul pianeta rosso, quindi loro per 7 mesi hanno simulato appunto questo viaggio, giorno dopo giorno, con la loro pianificazione proprio come se fossero in un viaggio vero, e quindi i 7 mesi sono passati e stanno per arrivare sul pianeta. Di Pippo, quanti sono gli astronauti? Sono in 6, di cui 3 russi, 2 europei, dei 2 europei uno italiano e un cinese. Okay. Quant'è lo spazio in cui hanno vissuto l'astronave? Che sarà più o meno la grandezza di una capsula spaziale. No, di sì, più mi pare, no? Sì, sono diciamo simili ai moduli che abbiamo sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi più o meno diciamo come un grosso autobus a 2 piani. E sono 2 o 3 di questi moduli, perché chiaramente ce n'è uno dove hanno una specie di ritrovo e dove possono anche poi lavorare con computer eccetera e fare anche un po' di esercizio fisico. Poi c'è un modulo invece dove ci sono diciamo degli esperimenti, e un terzo modulo dove appunto loro poi dormono, riposano eccetera, e ovviamente c'è poi il modulo che simula la superficie di Marte. Eccoci. Proprio in questi giorni loro arrivano su Marte. E quanto è grande la superficie che si apre ai loro occhi? Ma appunto è un volume di circa 1200 metri cubi, una superficie di circa 25 metri quadrati. Insomma. E lì che cos'è che c'è esattamente dal punto di vista della simulazione? Che cos'è che incontrano loro? Perché tra l'altro, mi scusi, ammartano, poi apriranno un portello e lì staranno diversi giorni, dentro e fuori, no? Sì, la simulazione è proprio appunto completa, quindi loro vestiranno delle tute per superficie marziana, derivate tra l'altro dalla classica tuta per attività extraveicolari, per le famose passeggiate spaziali, la Orlan russa, che usano ovviamente i russi quando escono dalla Stazione Spaziale Internazionale, è stata adattata per ambiente marziano. E appunto Diego Urbina, tra l'altro l'italiano, europeo, italiano, parte dell'equipaggio, sarà tra i 3 che appunto scenderanno sulla superficie di Marte simulata. E lì cosa gli avete preparato cosa come succede? Simulazione? Ma appunto faranno delle attività scientifiche, verificheranno il suolo, verificheranno anche appunto come muoversi all'interno di queste tute, che per quanto siano state, se volete, modificate e rese più adattate al corpo umano, diciamo così, rispetto alle vecchie tute delle prime missioni Apollo, eccetera, comunque sono sempre abbastanza ingombranti. Vi assicuro che quando ci si prova ad entrare non è proprio la cosa più semplice di questo mondo, soprattutto poi portarle addosso. Quindi diciamo che c'è tutto un discorso anche di entrare e uscire con questi portelli che si chiudono e si aprono. È abbastanza interessante proprio dal punto di vista della simulazione. Come dicevo, è una simulazione rigorosa di quello che potrebbe succedere sulla superficie di Marte se il viaggio fosse vero. Noi per prima di questa intervista, di questo incontro con lei, abbiamo fatto un quiz che è dedicato all'ammartamento, e sappiamo che ci sono in questa spedizione, in questo esperimento, gli aspetti principali sono proprio di tipo psicologico, capire varie situazioni in cui il comportamento degli astronauti può diventare critico, deve risolvere problemi. E mi pare che ci sia qualcosa che dovete testare relativamente alla memoria delle cose da fare? Sì, ci sono sono vari esperimenti, perché una cosa importante da considerare è che questi esperimenti, che sono di simulazione ma sono anche esperimenti considerati di confinamento, cioè in realtà si va a verificare anche qual è il comportamento diciamo dei singoli individui sotto uno stress, diciamo sotto stress, perché chiaramente è una situazione di stress psicologico quello di rimanere confinati. Stress astronautico. Sì, uno stress astronautico. Tenete anche conto, una cosa interessante, perché chiaramente questi ragazzi poi in qualche modo alla fine li ho selezionati io, almeno i due europei, nel senso che poi li ho visti alla fine di questa selezione. È interessante perché rispetto agli astronauti, visto che ho selezionato 2 anni fa anche i nuovi 6 astronauti, in realtà hanno una complicazione in più, perché mentre gli astronauti veri, tra virgolette, quindi non quelli che fanno delle attività simulate, in realtà sono selezionati e si addestrano per fare poi delle missioni reali, quindi sanno che andranno nello spazio, questi ragazzi sono in una situazione in cui stanno simulando, sanno benissimo quindi che stanno simulando, e di conseguenza sono in una situazione psicologica paradossalmente ancora più complicata, perché stanno simulando e quindi sanno che in realtà loro nello spazio non ci stanno andando veramente. Ora, qual è l'importanza anche per la nostra vita di tutti i giorni di questi esperimenti? Quando gli individui sono sotto stress, e soprattutto sono sotto stress anche per il fatto che sono confinati per un lungo periodo di tempo, tenete conto che viene proprio chiuso, cioè una volta che loro sono entrati dentro questi 4 bidoni. Sì, la simulazione è reale, come se loro fossero partiti, insomma. Assolutamente, quindi hanno per esempio, che ne so, il ritardo di tempo, perché nel viaggio verso Marte ovviamente il segnale non arriva come sulla stazione spaziale con pochissimo di ritardo, ma lì si arriva fino a 20 minuti di ritardo nella comunicazione, quindi per esempio viene inserita il ritardo nella comunicazione, che li mette tra virgolette in difficoltà psicologica, perché sanno che non sono più diciamo legati al centro di controllo. E poi c'è anche il fatto che chiaramente bisogna anche vedere come va la dinamica della interazione tra i vari personaggi, tenendo conto che sono 3 russi, 1 cinese e 2 europei, quindi anche con delle culture diverse, con un modo di pensare diverso, e diciamo che 500 giorni non sono pochi. Esatto, non sono pochi, quindi non è affatto poco. Interessante. Un grande fratello all'ennesima potenza. Grande fratello anziano. Ecco, appunto, come ne dicevo prima, nel nostro quiz ponevamo agli ascoltatori diversi problemi, tre problemi che possono incontrare gli astronauti, e mi pare che uno di questi che voi andate a studiare, vedrete se si verificherà, è anche, come dire, una dimenticanza delle procedure, è vero? Sì, questo è uno degli obiettivi. Chiaramente, come sempre in queste situazioni, si può magari verificare che le nostre assunzioni originali erano corrette, che quindi poi il problema si verifica, ma si possono anche verificare invece degli altri problemi che non erano stati assolutamente pensati in anticipo. Mi pare che durante tutto l'esperimento voi anche mettiate gli astronauti a confrontarsi con alcuni incidenti che potrebbero accadere durante il volo. Sì, questo succede sempre anche nelle simulazioni che facciamo per gli astronauti che vanno sulla stazione. La cosa interessante è stato che c'è stata appunto una simulazione recente, ma loro non sapevano che fosse una simulazione, quindi hanno creduto veramente che il problema ci fosse. Ed è venuta così bene che abbiamo deciso che da adesso in poi non li informeremo quando si tratta appunto di una simulazione di un incidente, in modo tale di avere proprio la risposta diretta e compiuta. Siete tremendi, certo, però. Però è giusto, però è giusto così. Ci dica esattamente quando ammartano? Tutte le operazioni avvengono tra il 14 e il 18. Fra un paio di giorni, va bene. Bocca al lupo, ci sentiamo poi una volta che tornano sulla Terra. Molto volentieri. Grazie Simona Di Pippo, arrivederci, buon lavoro. Allora, la soluzione del nostro quiz l'avete sentita all'interno dell'intervista. La risposta giusta era la seconda, ovvero gli astronauti potrebbero avere dei problemi di memoria. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La Fondazione Sigma Tau, una delle istituzioni credo più importanti, dobbiamo dirlo, in Italia per quanto riguarda la divulgazione della cultura scientifica e anche sponsor della nostra trasmissione, la Fondazione Sigma Tau organizza un set di appuntamenti dedicato a un tema piuttosto complesso, ma però con grandi possibilità di scenario. Barbara Gallavotti è qui con me questa sera. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Vediamo di presentarlo insieme. L'idea è quella di riuscire a divulgare a un pubblico abbastanza ampio questo binomio meccanica quantistica e biomedicina e medicina in genere. E qui abbiamo a che fare, come ogni tanto capita, con la meccanica quantistica, una scienza che tutti dicono è tanto magica quanto tremendamente applicata, quindi veramente una cosa singolare e sensazionale. Riusciamo a dare un po' una definizione di meccanica quantistica? Beh, la meccanica quantistica è la teoria che descrive il comportamento dell'infinitamente piccolo, delle particelle. Noi siamo abituati a vedere che il mondo va in una certa maniera, le cose si comportano in un certo modo, la tipica mela di Newton che dall'albero cade sulla testa dello scienziato. Queste cose non succedono nel mondo dell'infinitamente piccolo, è una specie di mondo di Alice deformato dove le particelle, gli elettroni si comportano un po' come onde, è un po' come una cosa che potremmo approssimare a dei corpiccioli, delle palline, dove le cose possono essere contemporaneamente in due posti diversi oppure andare da un posto all'altro senza passare per quello in mezzo. Certo, sembra proprio una magia, la meccanica quantistica è proprio contraria al buon senso. Poi quando dobbiamo per esempio progettare dei computer, dei circuiti elettronici, vediamo che questa è tremendamente utile, questa grande magia. Sì, la cosa incredibile è che questa cosa, che appunto è completamente controintuitiva e non ci serve nella vita quotidiana per migliaia di anni, all'uomo non è servita, oggi nella moderna tecnologia diventa indispensabile in molte circostanze. Quello della progettazione avanzata di certi tipi di computer, come hai detto tu, ma non solo. E per incominciare a parlare dei rapporti tra meccanica quantistica e medicina, tu hai intervistato? Ho intervistato Michele Parrinello dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano, che è uno dei massimi esperti di questo campo. La prima cosa che gli ho chiesto è stato proprio di raccontarci come questa inafferrabile, controintuitiva teoria in certi aspetti della tecnologia diventa proprio qualcosa di cui non possiamo fare a meno di tener conto. Sentiamo. Certamente si potrebbero fare tanti esempi in tanti campi, ma per rimanere nell'ambito delle scienze biologiche e biomediche bisogna pensare che il nostro corpo è una macchina biochimica molto complessa, diciamo è tutta la chimica, cioè la formazione, la rottura del legame chimico non si può capire senza far ricorso all'equazione di Schrödinger, alla meccanica quantistica. In particolare i mattoni di questa macchina biochimica che è il nostro corpo sono gli enzimi, che sono piccole fabbrichette formate da molecole che si chiamano proteine, che hanno una struttura particolare, la maggior parte hanno una specie di cavità in cui la proteina svolge certi compiti chimici, forma dei legami chimici, distrugge per esempio dei metaboliti che sono in giro nel corpo, che vanno sono dannosi, questi vengono spezzettati in pezzettini più grandi, forma molecole che sono importanti. Quindi ogni volta che noi vogliamo interagire con questi meccanismi fondamentali, ad esempio per delle cure, per utilizzare dei farmaci e cose del genere, noi abbiamo bisogno di conoscerli in maniera dettagliata e questo possiamo farlo solo se conosciamo la fisica quantistica. Beh, diciamo, scusiamo, conosciamo come funzionano questi enzimi e quindi sapere come le molecole interagiscono fra di loro, come si formano i legami chimici, e tutto questo è basato sulla meccanica quantistica. C'è un caso molto importante in cui sono servite queste informazioni, penso a farmaci pensati per contrastare l'HIV. Questo è stato un caso emblematico, c'è una proteina particolare, un enzima che si chiama la protease dell'HIV, la quale di cui si conosceva, si è saputo la struttura e che il cui effetti, che è importante per la vita del virus, sono potute trovare delle molecole che vengono usate, che vanno a colpire la cavità in cui questo enzima agisce, si attaccano là e impediscono alla proteina di funzionare, quindi il virus è destinato a morire, perché non può funzionare senza questo ingranaggio importante. È come mettere un cacciavite nell'ingranaggio del virus. Quello che fate voi fisici cos'è esattamente? Voi fornite delle informazioni alle persone che si occupano invece, per esempio, di disegnare un farmaco o cose di questo tipo? Certamente, c'è un'interazione molto forte, ci sono dei metodi computazionali che permettono sia di capire qual è la struttura della proteina, oppure sia di disegnare dei farmaci o selezionare possibili candidati farmaci per diverse proteine, che poi dopo i conti teorici vengono fatti naturalmente una serie di esperimenti, prima in laboratorio e poi sugli umani, prima di metterli in commercio. Diciamo, bisogna stare attenti che non si facciano danni alle persone. Secondo lei in futuro la fisica sarà la medicina sarà sempre più fisica e ci sarà sempre più terreno comune fra fisici e medici? Io penso di sì, questo è parte del trend generale delle scienze, che i confini fra le varie discipline vengono sempre di più abbattuti. Diciamo, la medicina è già molto influenzata dalla fisica, maggior parte una grande quantità di strumenti di indagine che usa la medicina sono stati disegnati e progettati dai fisici, magari in campi per scopi diversi, e poi sono stati trasportati nel campo della fisica. Basti pensare alle indagini NMR, ai raggi X e a tanti altri processi fisici che vengono utilizzati. Ma diciamo, c'è anche una tendenza molto forte alla cosiddetta medicina chimica, cioè di agire direttamente a livello molecolare per contrastare le malattie, per curare difetti, eccetera, eccetera. Quindi io penso che l'interazione sarà sempre, sempre più forte. Grazie, Michele Parrinello. Sì. Buonasera. Buonasera. Ed è qui con me questa sera anche Massimo Picari. Buonasera, Picari. Buonasera. Lei è il direttore generale della Fondazione Sigma Tau, che sta appunto organizzando degli appuntamenti su questo tema che certamente, come abbiamo già capito, può essere decisamente uno dei grandi temi rivoluzionari per quanto riguarda lo scenario scientifico di tutte le scienze biomediche, ovvero questa possibilità di confluenza tra meccanica quantistica e, appunto, come dicevo, le scienze biomediche. È un orizzonte che effettivamente si sta delineando. Beh, io direi sì, certamente si sta delineando, e che dal punto di vista pratico, applicativo, ha già dato alcuni risultati assolutamente notevoli. Se pensiamo alla parte della risonanza magnetica nucleare, ma per esempio la PET, la Positron Emission Tomography, che in pratica è basata sulla produzione di antimateria. Mm. E fino a qualche decennio fa sarebbe stato letteralmente impensabile. Certo. Assolutamente. Adesso riusciamo ad entrare non solo nel corpo, ma cominciamo anche a poter vedere le cellule, cominciamo a poter vedere i loro biochimismi e cominciamo a poter vedere aspetti funzionali anche per esempio del cervello, quando alcune aree del cervello vengono attivate nello svolgere certe funzioni, per esempio. E quindi diventa importante dal punto di vista culturale incominciare a portarlo anche a un largo pubblico, questo tema, questo orizzonte. Beh, direi decisamente di sì. Noi come fondazione, avendo una missione che è quella di diffondere la cultura della scienza primariamente, riteniamo che sia di importanza fondamentale per vari aspetti, per varie ragioni. Prima di tutto, la meccanica quantistica è una branca della fisica, diciamo, relativamente nuova, nasce attorno al 1920, quantomeno quello è l'anno in cui viene datata la sua nascita, quindi siamo di fronte a una branca della fisica che esiste da 90 anni, se pensiamo al pensiero scientifico, fisico, nella storia dell'umanità, tutto sommato relativamente giovane, e la gente non ne sa molto, diciamo che è per sua stessa natura, come abbiamo già sentito, controintuitiva e conseguentemente non si presta all'accostamento dell'uomo della strada. Non è facile. C'è bisogno di strumenti matematici, peraltro anche sofisticati. Ne parlavo con un fisico che si occupa un po' di queste cose, non è esattamente nelle parti più sviluppate della quantistica, e quando ho nominato per esempio una parte avanzata, che è la teoria delle stringhe, mi ha detto: no, io sulle stringhe non vado perché non sono stringhista. Nel senso, intendendo con questo detto che anche nell'ambito di chi studia la fisica quantistica esistono poi delle super specializzazioni, perché evidentemente è assolutamente vero, certo, si tratta quindi di qualcosa di molto molto specifico, molto specializzato e anche molto articolato. Quindi la prima nostra ragione è quella di far accostare il pubblico in generale a questo tipo di scienza, in particolare direi giovani, perché riteniamo che chi si accinge, come chi frequenta le scuole superiori, a dover fare una scelta di vita in termini di educazione, di studio, di crescita, possa essere affascinato da questa parte della fisica, appassionandosene e quindi magari intraprendendo questa avventura meravigliosa. Peraltro io sono medico, ma devo dire sono molto affascinato, non che i medici non possano essere affascinati, ma voglio dire non sono un fisico, quindi si può essere molto affascinati da questa parte della fisica, anche per le curiosissime prospezioni che ha, quindi si parla anche di viaggi del tempo, di materializzazione e quant'altro, ma non parliamo di questo, è tutt'altro. L'altro motivo per il quale Fondazione Sigma Tau si sta occupando di questo è stimolare un dibattito e probabilmente una interazione ulteriore tra fisica quantistica e scienze biomediche. Certamente, come dicevo all'inizio, abbiamo avuto questa interazione, c'è stata con la produzione per esempio di sistemi diagnostici sofisticati, come torno a dire la PET, sistemi terapeutici molto precisi e molto potenti per i tumori come l'adroterapia, che poi è basata sullo stesso tipo di particelle che girano nel Large Hadron Collider su DGNR. Nei grandi acceleratori, sì. Esattamente, però nei piccoli acceleratori li possiamo usare adesso per trattare i tumori con un'altissima percentuale di successo, perché riusciamo ad intervenire molto precisamente sul tumore senza danneggiare le strutture circostanti. Queste però, io direi, sono le briciole, cominciamo veramente dalle briciole, c'è molto che verrà, e questo molto che verrà io ritengo possa essere qualcosa che possa appassionare e ingolosire i giovani che si apprestano a scegliere una strada universitaria piuttosto che l'altra. Veniamo sul concreto, l'appuntamento, il primo di una serie, è a Roma quando esattamente? Mercoledì mattina, mercoledì 16 di febbraio alle ore 11 presso l'Auditorium della Musica di Roma, nella Teatro Studio, Sala Teatro Studio, ci sarà Roberto Petronci, che è il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, introdotto e presentato da Gilberto Corbellini, che è storico della medicina all'Università di Roma, e si parlerà appunto di quanto la fisica quantistica abbia interagito con la scienza medica, tant'è che il titolo della manifestazione che abbiamo pensato è meccanica quantistica e medicina, universi paralleli, nel senso questi universi si toccano, quanto hanno interagito finora e quanto possono interagire nel futuro. Ci sono delle enormi prospezioni, qui parliamo di ripensamento delle neuroscienze, parliamo di ripensamenti della biologia e quindi cose assolutamente radicali che negli anni prossimi ci daranno delle notevoli e senz'altro magnifiche sorprese. Grazie Piccani, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E qui è nata una nuova scienza, ogni tanto succede, si chiama culturomica, però forse abbiamo un po' esagerato. Credo che era mia ospite questa sera, Patrizia Caraveo. Buonasera Caraveo. Buonasera. Ho un po' esagerato, Non può essere una nuova scienza. Ma no, non è una nuova scienza, è semplicemente un nuovo modo di cercare di fare delle valutazioni dell'impatto di alcune idee, alcune problematiche sul nostro modo di pensare. Allora aspetta che la presento. Patrizia Caraveo, astronoma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e lei dirige la sezione milanese? Sì. Va bene, però si interessa anche in generale di scienze e dintorni. E allora, che cos'è questa culturomica? Lei ci stava dicendo è qualcosa che serve a valutare l'impatto in generale delle scienze sulla società. E come si fa a studiare questo impatto? Si studia in un modo molto, da un lato semplice, dall'altro molto complesso. Mica tanto, sì. Allora, partiamo dall'inizio. Noi scienziati siamo abituati a essere valutati e negli anni abbastanza recenti, devo dire, è invalso, sono invalsi quelli che si chiamano i parametri oggettivi, cioè ad esempio quanti lavori uno fisicamente scrive, quante volte questi lavori vengono citati, quanto importanti sono le riviste sulle quali i lavori vengono pubblicati. Questo serve per in qualche modo dare un voto agli scienziati, capire quanto sono bravi, quanto le loro ricerche sono di successo. Allora, per estendere, diciamo, l'idea generale di come si fa a valutare quanto un'idea piuttosto che una persona impattino sulla cultura, è stato utilizzato, diciamo, una visione particolare del lavoro che sta facendo Google Books di fare uno scan di quanti più libri possibili. Esatto, su Google c'è questa specie di archivio che va montando nel tempo con su tanti libri digitalizzati. Sono fino adesso 15 milioni i libri digitalizzati, che sono una frazione ancora non maggioritaria ma molto significativa della totalità dei libri che sono stati pubblicati dall'Impero Romano ai giorni nostri, che si valutano intorno ai 125 milioni. Intorno al 10% hanno già digitalizzato. E quindi questi libri esistono e qualcuno si è posto il problema se fosse possibile cercare di capire dei trend culturali dallo studio, ad esempio, della frequenza delle parole, quante volte vengono usate le parole in questi libri. Allora, questi libri sono per la maggior parte in inglese, quindi questo studio viene fatto sulla produzione inglese. Ma si prende una parola e si vede quante volte appare dentro questi 15 una milioni. Una parola o un insieme di parole. Sì, che definiscono un concetto, che definiscono una categoria culturale. Per esempio, qualche modo. Ad esempio, che so io, uno può vedere quante volte appare la parola ice cream, gelato. Per capire come il gelato abbia conquistato la cucina americana, per esempio. Si vede proprio il trend quando arriva al massimo, poi decresce, eccetera. La parola pizza, la parola pasta, cioè si possono fare tutta una serie di studi, si può studiare come si evolve la lingua. Sì. Mi scusi, Caraveo, perché io prendo pizza e posso scoprire che nell'Ottocento era una vicenda solo italiana e poi improvvisamente appare in tutto il mondo. Dal 1950 in poi si vede che la parola pizza comincia ad apparire sempre più frequentemente in libri, come dicevo, per la maggior parte inglesi. Okay. Quindi vuol dire che ci sono le ricette per la pizza, ma il protagonista di un libro si siede e mangia una pizza, certo, o cose di questo genere. Certo. E quindi gli scienziati hanno cominciato a dire: beh, cerchiamo di capire allora come da questo patrimonio di scan e quindi di informazioni digitalizzate può essere possibile capire come evolvono ad esempio alcuni concetti, come evolve il concetto di evoluzione, quanto è importante l'utilizzo di una parola, ad esempio il DNA. E quindi tutto è in rete ed è possibile andare a interrogare, chiunque lo può fare, questo database che trova dentro in Google Labs. Labs. Sì, il database si chiama N-Grams. Come gram è grammatica, perché la parola singola è un gram, quindi n-grams.googlelabs.com, E quindi banalmente si scrive una parola e lì si vede come questa parola ha pesato nel corso dei decenni, perché si può fare la ricerca più o meno dal 1800 fino ad oggi. E quindi, oltre alla pizza, diciamo così, possiamo andare a vedere quante volte compaiono nei libri, nei libri in generale, non nei libri scientifici in particolare, i nomi di scienziati che secondo noi hanno cambiato il corso della storia. Ecco, senta Caraveo, c'è un trend particolarmente significativo di crescita decrescita? Ovviamente di trend se ne possono trovare quanti se ne vuole. Comunque, ad esempio, io ho trovato particolarmente interessante il trend dell'utilizzo delle parole uomo, donna e Dio, per esempio, giusto per restare veramente nelle categorie generalissime. Allora, se noi guardiamo l'utilizzo di queste parole, la frequenza di queste parole intorno al 1800, scopriamo che Dio è molto più utilizzato, compare molte più volte che uomo, che compare molte più volte che donna. Nel 2000 la situazione è completamente rovesciata: la parola donna compare più spesso di uomo, che compare più spesso di Dio. E quindi, ad esempio, il commentatore sulla rivista Science che raccontava questo trend diceva che Dio va sempre molto forte, però forse avrebbe bisogno di un buon pubblicitario. Grazie Caraveo e buon lavoro. Altrettanto a voi, arrivederci. C'è un problema, ve ne sarete accorti se seguite un po' la nostra trasmissione, nella quale spesso vi abbiamo parlato di nuovi pianeti. Ogni settimana arriva qualche nuova scoperta. Il fatto è che negli ultimi 3-4 anni siamo andati avanti con infornate di 8-10 pianeti per volta. Sapete che si è quasi perso il conto? Siamo comunque intorno ai 1200 sparsi qua e là nella porzione di universo, la nostra galassia di fatto, che riusciamo a perlustrare al punto da trovare pianeti. Ho iniziato dicendovi che c'è un problema, è il seguente: poiché andiamo alla ricerca di questi pianeti e andiamo alla ricerca perché vogliamo trovare quelli abitabili, che abbiano qualcosa in comune con la nostra Terra, bene, che cos'è la Terra? Che cosa vuol dire che un pianeta è tipo Terra? Per rispondere dobbiamo avere un'idea precisa di che cosa sia la nostra Terra. No, sto sbagliando. Per essere più precisi dobbiamo sapere cosa possono essere dei terroidi, diciamo così, ovvero un insieme di pianeti che hanno delle specificità tali da poter ospitare una specie come la nostra. Tipo la nostra, qui siamo sempre in mezzo a tipo e tipologie. Per esempio, su un pianeta molto grande con tanta massa ci sarebbe una gravità molto forte. Guardate che le dimensioni delle cose che stanno su un pianeta sono connesse alla gravità del pianeta stesso. Le montagne della Terra non sono più alte di tanto, vicino ai 9000 metri, perché abbiamo questa gravità. Sulla Luna abbiamo montagne alte 20 chilometri. E lo stesso dicasi per tutto il mondo vivente. Allora dobbiamo avere le idee chiare su quale sia l'intervallo nel quale si collocano le dimensioni di un pianeta che è simile Terra. Lo stesso vale per l'atmosfera, anche questa potrebbe variare, sempre consentendo una certa modalità di vita che riteniamo assimilabile alla nostra. Perché andare alla ricerca di queste definizioni? È molto semplice: se si deve analizzare l'insieme dei pianeti, tantissimi, no? Come dicevo all'inizio, che andiamo scoprendo man mano, e vogliamo fare questa analisi per scoprire dei cugini, e dobbiamo anche sapere cosa cercare, cosa scartare nel mucchio. Perché questa maggiore precisione consentirebbe di affinare gli strumenti per trovare ciò che vogliamo. Andate in un motore di ricerca e digitate gorilla e twins. Twins in inglese vuol dire gemelli. E penso che vi riuscirà di trovare qualche foto. La vicenda è appena accaduta. Siamo nel Ruanda, un paese che confina con il Congo, in quella zona dell'Africa nota come i Monti della Luna, oppure il territorio dei vulcani Virunga. Forse Qualcuno di voi ricorderà il racconto di Michael Crichton, il titolo del libro era Congo, che si svolgeva in questa zona. Qui vivono i gorilla di montagna. Che cosa c'entrano i gemelli? Beh, c'entrano perché una signora gorilla, guardate che non è un'esagerazione, io sono stato laggiù tempo fa e quando passate basta mezz'ora a 7-8 metri da dei gorilla, bene, se poi è tempo di ritornare al campo vi viene proprio spontaneo di dire buonasera signora, saluti a casa, i gorilla sono come noi. Dunque questa signora ha dato alla luce due gemelli. Per loro i gorilla è cosa rara, rarissima. Fra tutte le famiglie sono suddivisi in famiglie i gorilla, sono collettivi di 20-25 soggetti, famiglie costantemente monitorate nei due parchi dei Monti Virunga. Questo parto gemellare è il quinto nei tanti anni che si stanno studiando e accudendo questi animali. Nelle immagini che potete trovare in rete, ve ne metteremo una anche sul nostro sito www.moebiusonline.eu, vedrete una signora con i suoi due piccoli. Loro sono piccolini, lei è robustina. Certamente una femmina di gorilla può arrivare a 180-200 kg. Il maschio dominante, quello classico che penso abbiamo tutti in mente, si aggira dai 300 ai 400 kg. Vi dicevo prima, monitorati costantemente, sì, però con enormi sforzi. Adesso le cose vanno un po' meglio, lì, fra quelle montagne alte 2500 metri, ma un po' più a valle, se ne sono viste di tremende di vicende, a partire dal tragico scontro fra Hutu e Tutsi di una quindicina di anni fa. La guerra ha fatto vittime anche fra i gorilla. Ma anche prima la situazione era molto compromessa. Problemi con le popolazioni locali che tendono a uccidere i gorilla ci sono stati fin dagli anni 70 del secolo scorso, poi però sono stati avviati dei programmi di educazione alla convivenza e hanno dato successo. In quel tempo, intorno agli anni 70, come vi dicevo, si raggiunse il punto più critico per quanto riguarda il numero di esemplari presente. Poi ci fu un miglioramento e quindi un nuovo peggioramento per via dei conflitti. Adesso nella zona dove è avvenuto il parto gemellare si contano 480 esemplari e in un'area più vasta siamo a circa 700. Sono comunque animali che avrebbero bisogno di un ambiente più vasto e che non c'è più. E questo li porta a spegnersi. Semplice, fanno meno figli. Però questa volta ne hanno fatti due d'un botto. Chissà, forse si stanno impegnando. Diamogli fiducia. Le cose che avete ascoltato erano Moebius di questa settimana. Ne abbiamo molte altre, ma ve le raccontiamo fra 7 giorni. Buona serata a tutti e a tutte.